bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata mannato so, più belle me, oh sole mio, sta in fronte a te, ai, ai, oh sole mio. Quando fa notte, io sole se ne scende, mi viene a casa una malinconia sotto la finestra dove gli restarini. Quando fa notte, io sole ai se ne scende. Pronta a te, ai, ai, oh sole.